Ore 8 e 12 di mercoledì 9 marzo 2005. Qualche giorno fa sono rimasto impelagato in una discussione in cui credo più o meno tutti prima o poi finiscono per essere invischiati. La discussione su chi parla peggio della televisione, fondamentalmente è una gara a chi parla peggio della televisione. Di solito comincia con l'accenno di qualcuno su una trasmissione più o meno becera, e poi c'è sempre qualcuno che approfitta dell'opportunità per posizionarsi e dichiarare di non guardare mai la televisione. Io non guardo mai la televisione, è la frase standard. Una frase che fino a qualche tempo fa metteva fine alla discussione, adesso invece vedo che molti si sono forse anche abituati allo schema e hanno cominciato a prendere delle contromisure dichiarando qualcosa di anche più estremo, del tipo io non possiedo affatto la televisione, fino all'ultimo grido in materia di posizionamento autoreferente, che è la frase nella mia famiglia nessuno ha mai posseduto la televisione. Una frase alla quale è abbastanza difficile credere, viste le statistiche, però poi ci sono anche delle varianti, ci sono quelli che dichiarano di poter provare di non possedere la televisione perché non hanno mai pagato il canone della RAI. Ma io credo che sia un atteggiamento abbastanza puerile quello di prendersela con la televisione come mezzo e confonderlo soprattutto con i contenuti, anche perché tra l'altro se in questo modo da una parte si vorrebbe creare un'elite di persone che non si fanno influenzare dal piccolo schermo, dall'altra in realtà si fornisce un alibi fortissimo a chi appunto è responsabile dei vari palinsesti, che si sente a questo punto del tutto legittimato a fare della televisione la cloaca di contenuti che conosciamo. E parlo naturalmente della televisione mainstream, cioè quella che si riceve via etere, sia in analogico sia, mi dispiace dirlo, anche in digitale, nel senso che purtroppo i canali che attualmente popolano il digitale terrestre non mi sembra che possano in alcun modo riscattare la TV terrestre rispetto alla TV satellitare, che invece a mio parere rappresenta la prova provata che la TV può essere anche fatta molto bene, perché l'offerta satellitare, e non parlo necessariamente, anzi non parlo direi della TV a pagamento, parlo soprattutto della TV satellitare in chiaro, offre contenuti di grandissima qualità. Ne ho parlato abbastanza diffusamente proprio anche negli articoli che ho pubblicato in passato su Pendo Deliri. Probabilmente ne parlerò anche nel nuovo podcast, però è indubbio che ci sono dei canali gratuiti che offrono cose infinitamente superiori ai canali a pagamento. Parlo chiaramente di Arte, il canale franco-tedesco culturale. Parlo di TV5, ma per uscire anche dal mondo francofono, che indubbiamente si distingue per il fatto stesso di combattere la battaglia per l'eccezione culturale, vi sono cose molto interessanti anche in ambito anglosassone, in ambito ispanico e così via. E ci sono anche dei canali italiani interessanti, e lo dico per chi pensa che questo tipo di fruizione sia legata alla conoscenza delle lingue straniere. questo atteggiamento di telefobia generalizzata e semplicistica è abbastanza simile a quello che accade per certi versi negli Stati Uniti. Sicuramente molti di voi avranno letto il saggio di Naomi Klein, No Logo, che parla del lavoro di questi cool hunters, cioè di queste persone che cercano di individuare le nuove tendenze, ciò che può attrarre le grandi masse di consumatori. E una tendenza che è stata individuata tra le più recenti è proprio quella di cercare degli alibi nell'omologazione. Le persone da una parte non sopportano l'idea di essere omologate, dall'altra vogliono fruire di contenuti che permettano di essere riconosciuti. Quindi per risolvere questo problema, le grandi marche hanno inventato, diciamo così, un modo di essere che è quello del consumatore autoironico di oggetti sfacciatamente massificati, come possono essere le merendine, come possono essere certe scarpe Nike, come può essere anche un certo tipo di programma televisivo estremamente becero, ma di cui è divertente parlare tra amici. Questo ovviamente colpisce soprattutto le giovani generazioni. Ed è del tutto legittimo, perché obiettivamente non è neanche simpatico che vi sia sempre una maestrina saputella come Naomi Klein che deve dire a tutti che cosa si può vestire, che cosa deve essere mangiato, che programmi vedere in televisione. E lo stesso vale anche per me. Non è una cosa simpatica farsi dire da qualcuno che cosa non bisogna vedere in televisione. E questo comunque genera un desiderio un sano desiderio di massificazione autorizzata, culturalmente autorizzata. Ed è un po' quello che succede anche da noi quando, per esempio, guardiamo un programma televisivo becero, sfacciatamente becero, ma che in qualche modo ci conquista e ci imprigiona nella fruizione settimanale, quando non addirittura quotidiana, è il caso del Grande Fratello. E al tempo stesso però abbiamo bisogno di un alibi per giustificare questa nostra prigionia e anche questa nostra fondamentalmente pigrizia mentale, e l'alibi lo troviamo nel fatto di poterlo definire trash, nel fatto di poterne parlare male. La stessa cosa succede con il processo di Biscardi. Perché così tanta gente ne parla male, ma così tanta gente lo vede? Perché è comunque divertente farne oggetto di discussione, e quindi il cerchio in qualche modo si chiude, anche perché l'investitore, l'inserzionista pubblicitario non si pone certo la domanda se il telespettatore stia seguendo questo o quel programma televisivo perché ne vuol parlare male, oppure perché ne è un sincero ammiratore. E quindi anche con l'etichetta trash, che si estende poi a tantissimi altri beni di consumo che non siano programmi televisivi, abbiamo risolto anche il problema rendere più sopportabile la nostra consapevolezza di essere omologati, il che chiaramente accontenta tutti, perché noi siamo omologati, riusciamo a trovare argomenti di conversazione in comune con le nostre conoscenze al di fuori, diciamo così, del momento della frizione mediatica, ci guardiamo negli occhi e ci riconosciamo, però in più abbiamo anche l'alibi della nostra che protegge, diciamo così, il nostro sacrosanto diritto ad essere mentalmente pigri e fondamentalmente lobotomizzati dal punto di vista mediatico.